il limite imposto anche a me ovviamente. Il professor Gerardo Cunico dell'Università di Genova adesso ci parlerà della teodicea etico-teleologica. Voi conoscete l'amico Cunico, che recentemente ha scritto, se posso dire, un notevole libro su Kant, quindi è sicuramente un esperto. Lo ascolteremo con grande attenzione, ma anche con grande piacere. Bene, sì, sì, in questo libro in realtà c'è un lungo saggio su Kant e la teodicea, che naturalmente non cerco nemmeno di riassumere, io cerco di problematizzare degli aspetti che erano stati toccati solo marginalmente in quel saggio. Rispetto alla sintesi che trovate allegata ai dati del convegno, io per ragioni di brevità salterò totalmente il primo punto, cioè un riassunto che pure avevo scritto delle diverse trattazioni del problema della teodicea in Kant, sintetizzerò al massimo il secondo e il quarto e anche il quinto, insomma. Passo quindi direttamente a una prima presentazione. In questa mia comunicazione cerco di riprendere in esame il problema della teodicea in Kant e di metterlo più strettamente in relazione col concetto di teleologia morale. E mi baso quindi soprattutto sulle due più estese trattazioni esplicite in Kant del nodo della teodicea, del Kant critico della teodicea, e mi riferisco a una parte delle lezioni di teologia razionale, molto probabilmente riferite al semestre invernale del 1783-84, e poi a quella fuori dal saggio importante del 1791 sul fallimento di tutti i tentativi filosofici nella teodicea. Entrambe queste trattazioni si basano appunto sull'unico concetto di teleologia morale, eppure la loro impostazione e il loro esito appaiono estremamente diversi, per non dire antitetici. Per comprendere tale antitesi e insieme la continuità della linea di pensiero teleologico che si afferma pur nelle posizioni tra i due contesti, cercherò di ricostruire il nesso tra teleologia morale e teleologia fisica che è implicito in tutti e due questi contesti. Allora, partiamo dal primo testo, le lezioni di teologia razionale del 1783-84. Qui Kant presenta una teodicea esplicita, molto sviluppata e articolata attraverso un'argomentazione puntuale mirante a confutare le obiezioni rivolte contro gli attributi morali di Dio. L'insieme di questi argomenti è definibile, io così l'ho definita, come teodicea etico-teleologica. Mi limito a un brevissimo schematico riassunto. La difesa, anzitutto, della santità di Dio si configura in particolare come una teodicea storico-teleologica. Il male morale è considerato come sviluppo incompleto del germe del bene, in citazione, come passo iniziale inevitabilmente manchevole nel processo autonomo di crescita verso il bene e tuttavia come non imputabile a Dio, perché mera conseguenza indiretta del piano della creazione che richiedeva l'autonoma conquista progressiva della moralità da parte degli uomini. La difesa della bontà di Dio si configura come teodicea storico-escatologica. Il male fisico qui viene presentato come necessario per la felicità futura dell'uomo, in quanto stimolo all'attività e all'impegno, al desiderio della vita futura e all'aspirazione a rendersene degni. La difesa della giustizia di Dio si configura come teodicea morale in senso stretto. La sproporzione tra le sofferenze e le colpe, in parte non viene considerato non così grande né così assoluto, ma soprattutto è da un lato una necessaria occasione di mostrare la vera virtù, dall'altro l'inevitabile condizione che rende possibile l'agire morale senza i moventi impuri che deriverebbero dalla certezza empirica delle conseguenze remunerative delle azioni. Ma in che senso si può parlare qui di teodicea etico-teleologica? Le tre figure del male vengono considerate come fenomeni non già voluti da Dio, ma tuttavia tenuti in conto nel piano della creazione, che è ordinato al libero sviluppo morale dell'uomo, cioè imperniato sulla libertà umana e mirante alla meta dell'autonoma conquista della perfezione morale. Ma, e qui arrivo al secondo punto, cioè il rapporto tra teleologia morale e teleologia fisica. Ma è legittima questa designazione e l'interpretazione ad essa sottesa del nesso tra teleologia e morale? Più avanti, nello stesso corso di lezione del 1783-84, nel contesto della trattazione del problema del fine della creazione, compare esplicitamente il termine teleologia pratica contrapposto a quello di teleologia fisica, e viene identificato col concetto di sistema di tutti gli scopi mediante la libertà, sistema che sia innanzitutto condizionato dall'osservanza delle leggi morali, ma è anche fatto coincidere con la perfezione del mondo, consistente nella congruenza del mondo con la moralità, cosicché già qui la teleologia pratica appare intesa non solo come finalità suprema delle creature razionali, ma insieme come finalità suprema del mondo stesso, e quindi implicare una connessione con la teleologia fisica, ossia esigere che le cose naturali siano subordinate agli scopi delle creature razionali e che il corso delle cose si accordi con la qualità morale delle persone resisi degne di essere felici. In altri due testi posteriori, il saggio del 1788 sull'uso di principi teleologici in filosofia e l'introduzione alla seconda parte, cioè i principi metafisici della dottrina della virtù, della metafisica dei costumi del 1797, la teleologia pratica è identificata espressamente con la morale. Mentre però nell'opera del 1797 Kant parla di teleologia morale oggettiva e la identifica con l'etica in senso stretto, cioè intesa cioè come dottrina della virtù, contrapposta alla dottrina del diritto, e quindi intesa come dottrina degli scopi che sono al contempo doveri, nel saggio del 1788 la teleologia pura pratica viene identificata con la morale nella sua globalità, cioè comprensiva sia di etica che di diritto. È intesa in tre sensi correlati tra loro ma ben distinti. Come riferimento al principio a priori che contiene la relazione di una ragione in generale alla totalità di tutti gli scopi, secondo come riferimento a una pluralità di scopi che la morale è destinata a realizzare nel mondo, e infine come riferimento all'oggetto o scopo, al singolare questo, che essa prescrive di attuare nel mondo. Il primo punto di vista, per dirlo molto brevemente, è quello del principio di universalizzazione e del regno dei fini evidenziato nella fondazione della metafisica dei costumi, il secondo è riconducibile a quello degli scopi che sono al contempo doveri teorizzato nei principi metafisici della dottrina della virtù, il terzo è quello del sommo bene come scopo finale della ragione pratica. Nella critica del giudizio, Kant, al posto dell'espressione teleologia pratica usata nelle lezioni e anche in quei testi citati precedentemente, usa prevalentemente il termine teleologia morale, usa solo due volte il termine. Io sappia il termine teologia pratica nell'introduzione e il primo senso, in prima volta in un senso non specifico. Il concetto di teleologia morale viene introdotto nella metodologia del giudizio teleologico per indicare la relazione della nostra propria causalità e addirittura ad uno scopo finale a cui dobbiamo mirare nel mondo, questo nel paragrafo 87. Poiché qui si tratta evidentemente della causalità della libertà, questa formulazione potrebbe riferirsi a a tutti e tre i significati messi in evidenza nel saggio del 1788. In realtà però Kant in questo contesto riferisce la teleologia morale esclusivamente allo scopo finale della nostra ragione pratica, come si evidenzia dal paragrafo 88, ossia allo scopo supremo cui è destinato e che è prescritto all'uomo come ente morale. Scopo che poi il giudizio riflettente deve assumere come coincidente con lo stesso scopo finale della creazione. Nell'ambito della critica del giudizio, la teleologia morale viene introdotta in analogia con la teleologia della natura e proprio per compensare la principale manchevolezza di quest'ultima, quella di non poter non solo risolvere, ma neppure porre rigorosamente il problema dello scopo finale in assoluto. In realtà questa impostazione racchiude una serie notevole di difficoltà. Già risulta difficile pensare come la teleologia fisica possa essere integrata da una teleologia morale che sembra tutta prima non avere nulla in comune con l'impostazione e la problematica di quella. Ancor più sembra arduo riconoscere che e come la teleologia morale possa rinviare alla teleologia fisica e farvi riferimento. Tuttavia vi è un duplice collegamento fra i due concetti. Il primo è ancora, se vogliamo, estrinseco, generico, eppure a suo modo fondamentale. Entrambe le teleologie hanno in comune il genere di essere, cioè, dottrine degli scopi, ovvero, considerando il loro contenuto oggettivo, sono sistemi universali di tutti gli scopi, sia pure partendo da punti di vista diametralmente opposti. La teleologia della natura muove dal concetto dell'insieme di tutto ciò che è in quanto possibile oggetto di esperienza in base a leggi causali. La teleologia morale muove dal concetto dell'insieme di tutto ciò che deve essere in quanto prodotto della libertà secondo leggi morali. Il secondo collegamento è quello meglio rilevabile nella critica del giudizio, nella maggior parte dei testi relativi, parte dal concetto stesso di scopo finale, la cui attuazione, come quella della libertà e della moralità in generale, deve avvenire nella natura, proprio in quanto mondo sensibile, e cioè non solo in un soggetto, l'uomo, che è anche un essere sensibile, ma anche in un ambito più vasto di cose, di rapporti e circostanze, riferisco soprattutto al punto del paragrafo 87, cioè in un mondo che deve inoltre essere necessariamente pensato come cooperante a tale attuazione, sebbene il corso naturale delle cose e l'insieme delle leggi della natura non consentano né di prevedere né di concepire in senso stretto questo concorso. La necessità però di tale cooperazione della natura risulta dal fatto che lo scopo finale dell'uomo, inteso come sommo bene completo, deve includere non solo l'insieme delle intenzioni, degli atti interiori e degli effetti immediati della moralità, ma anche l'insieme dei suoi effetti immediati, riassumibili nel concetto di felicità, che è il sommo bene possibile nel mondo, il non sommo bene fisico possibile nel mondo, e quindi rientra di diritto sotto la legislazione della natura, sebbene debba essere pensato come subordinato mediatamente anche alla legislazione della libertà. E sebbene questa concordanza con la condizione costituita dalla moralità non sia concepibile in base alle leggi naturali. La teleologia fisica parte dalla considerazione della finalità interna riscontrata negli organismi viventi e in base a questi, intesi come scopi della natura, è autorizzata a interpretare l'intera natura come sistema di scopi e quindi a ipotizzare una finalità esterna o relativa, anche se non riesce a legittimare fino in fondo l'attribuzione all'uomo del ruolo di scopo ultimo della natura, che si vede al paragrafo 83 della critica del giudizio. L'uomo è confermato in questo ruolo solo se contemporaneamente è visto come un essere che oltrepassa la natura, in quanto sottoposto alle leggi morali della libertà e destinato a dare loro attuazione. Solo come essere morale l'uomo può essere considerato come scopo finale della creazione, ossia dell'esistenza della natura e di tutto l'universo, già che solo in tale essere è incondizionatamente degno di esistere e può costituire la ragione capace di aver determinato un creatore morale onnipotente alla creazione del mondo, paragrafo 84. È in questo modo che la teleologia morale integra la teleologia fisica e anzi apre a sua volta una prospettiva finalistica alla quale la stessa teleologia fisica deve essere subordinata. La teleologia morale infatti non concerne soltanto la relazione della libertà allo scopo finale, ma, cito un passo del paragrafo 87, del pari la reciproca relazione del mondo a quello scopo finale e la possibilità esterna della sua attuazione. E dunque, altra citazione, connessa da un lato alla nonotetica della libertà e dall'altro alla nonotetica della natura. Che il mondo stesso debba essere pensato in ordine ad uno scopo finale, e anzi come tale da dover concordare con lo scopo finale dell'uomo, è giustificabile solo in base al giudizio teleologico reso possibile dalla ragione pratica col suo concetto di scopo finale. Quest'ultima ci impone di ammettere la possibilità, e cioè l'attuabilità, dello scopo finale, ma poiché la sua attuazione sarebbe impossibile senza il concorso della natura, qui parafraso un passo del paragrafo 88, cioè alla distribuzione della felicità in proporzione alla virtù, ci impone anche di ammettere una natura delle cose che concordi con tale scopo finale. Questo è il quadro generale, rilevabile, riscontrabile nella critica del giudizio. Ora passo all'altro punto, al saggio del 1791 sul fallimento di tutti i tentativi filosofici nella teodicea. Questo saggio è dedicato programmaticamente alla confutazione di tutti gli argomenti opposti dalla teodicea alle obiezioni sorte contro gli attributi morali di Dio, a partire dalla riflessione sui mali esperiti dagli uomini nel mondo. Il saggio mira dunque alla confutazione di quella che chiama più avanti nel saggio la teodicea dottrinale. Kant stesso caratterizza questa teodicea in termini improntati al punto di vista teleologico. La teodicea dottrinale è presentata come quella difesa di Dio che prende le mosse dalla teleologia naturale come se esprimesse da sé lo scopo finale, ovvero l'intenzione finale di Dio, e che così pretende di derivare sul piano del giudizio riflettente teoretico da quello che tutt'al più può essere lo scopo ultimo della natura, lo stesso scopo finale che invece, dice Kant, è sempre morale. In un abbozzo preparatorio per questo saggio, la teodicea dottrinale appare come una difesa di Dio che presume di giustificare la saggezza divina come principio ordinante e reggente il mondo sulla base di una positiva conoscenza dell'accordarsi del piano del mondo, nel senso della teleologia fisica, con la saggezza divina, nel senso appunto della teleologia morale. Kant stesso all'inizio del saggio si premura di distinguere nettamente, accuratamente tra il concetto della saggezza divina, tra la saggezza tecnica che corrisponde a quella intelligenza tecnica, il Kunstverstand postulata dalla teleologia fisica come principio ordinatore del mondo, e la saggezza morale che corrisponde al creatore morale del mondo postulato come sommo bene originario dalla teleologia morale. Qui naturalmente non parlo degli argomenti usati da Kant per confutare la teoria dottrinale, mi limito a sintetizzare il risultato. Dopo la confutazione puntuale degli argomenti dei difensori della causa di Dio, Kant constata l'inevitabile fallimento della teoria dottrinale, che promette di giustificare la saggezza morale nel governo del mondo, che cito, a partire da ciò che l'esperienza ci fa conoscere di questo mondo. Tale fallimento è sancito definitivamente e insieme ricondotto alle sue ragioni più profonde in base ad una considerazione che richiama in causa ancora una volta il nesso tra teleologia morale e teleologia fisica. La nostra ragione finita non che non può sapere in che modo il soprasensibile stia a fondamento del sensibile, non può avere né farsi un concetto determinato della congruenza tra la saggezza morale e la saggezza tecnica di Dio, ossia non può intendere in senso stretto, non può einsehen, come, in che modo, l'ordinamento naturale delle cose del mondo possa e debba accordarsi con lo scopo finale prescritto dalla stessa ragione pratica, sebbene sia costretta a presupporre e quindi a pensare, ma non appunto a conoscere, come praticamente necessario e quindi possibile tale accordo nell'idea del sommo bene. E passo qui all'ultimo punto, brevemente, più brevemente possibile. Il saggio del 1791, mentre decreta il fallimento della teodicea dottrinale, delinea contemporaneamente una soluzione positiva del problema della teodicea, sia pure come una sentenza autoritaria, un Machtspruch della ragione pratica, che consente e anzi esige di troncare il nodo senza ulteriori indugi. Kant stesso chiama questa soluzione teodicea autentica, nel senso di una interpretazione autentica del disegno del creatore del mondo. Questa teodicea autentica viene a essere costituita da due momenti negativi e da un momento propriamente positivo. Il primo momento negativo è questo, la rinuncia ad una dimostrazione teoretica della congruenza tra corso del mondo e saggezza morale di Dio basata sulla finalità manifestata dalla natura. Il secondo momento negativo è questo, la ripulsa di tutti gli argomenti, la Abweisung, pura Abweisung, di tutti gli argomenti opposti a tale congruenza in forza del semplice appello all'autorità dell'imperativo morale. Il momento positivo consiste invece in questo, nell'interpretazione del corso del mondo e del suo ordine teleologico alla sola luce dello scopo finale rivelato dalla ragione pratica e quindi in virtù della fede morale, nel Dio come creatore morale del mondo, sommo bene originario e somma saggezza morale. Il riferimento alla teleologia morale è dunque essenziale e decisivo anche per la teodicea autentica. Ma attraverso la teologia morale anche la teologia autentica stabilisce un legame necessario con la finalità complessiva della natura. La risposta positiva della teologia autentica significa infatti la possibilità di interpretare praticamente, ossia di sottoporre al giudizio riflettente teleologico in senso pratico morale, la stessa natura, la sua immanente connessione sistematica di tipo finalistico. A questo punto allora sorgono due domande inevitabili. La teodicea autentica del 1791 non ha forse in comune con la teodicea etico-teleologica delle lezioni del 1783-84 proprio il basarsi sulla teleologia morale e sul riverberarsi di questa sulla teleologia fisica? E viceversa, la teodicea delle lezioni non rispetta forse in qualche modo i criteri della teodicea autentica, in quanto anziché cercare di ricavare dal mondo e dalla sua immanente teleologia fisica la sua congruenza con la teleologia morale, si limita a interpretare il corso del mondo alla luce della destinazione morale dell'uomo? La risposta alla prima domanda è sì, è vero, c'è questa punto in comune. La risposta alla seconda domanda mi sembra debba essere chiaramente no. In realtà l'esame meticoloso e dettagliato delle obiezioni condotto nel corso delle lezioni dell'83-84 appare tutt'altra cosa che la pura e semplice ripulsa Abweisung richiesta dal saggio del 1791. Già il semplice accondiscendere a un simile esame sembra, alla luce del saggio, dover far perdere il diritto ad appellarsi direttamente alla fede morale. Inoltre, molti argomenti usati nelle lezioni vengono esplicitamente criticati e respinti nel saggio. Infine, dato che nel loro insieme gli argomenti etico-teleologici delle lezioni si sforzano di mostrare un piano della creazione in cui i mali non appaiono più come zweckwidrig, come contrari allo scopo, da un lato finiscono per volatilizzare i mali stessi, dall'altro incorrono nell'errore di impostazione rimproverato nel saggio alla teodicea dottrinale, quello di pretendere di poter mostrare che e in che modo la teleologia morale, compresa sotto la saggezza divina, si serva della teleologia fisica, ovvero come quest'ultima venga a concordare con la finalità morale della creazione. Non so se ho superato ancora un minuto. Tuttavia, l'impostazione rigorosa della teodicea autentica del saggio del 1791 non preclude affatto quella prospettiva storico-escatologica che le lezioni del 1783-84 avevano direttamente ricavato dalla teleologia morale e immediatamente utilizzato per interpretare la destinazione dell'uomo al bene e al superamento progressivo del male come giustificazione teleologica del male stesso e quindi della saggezza divina che lo ha consentito nel suo piano. Il saggio del 1791 dichiara inaccettabile quest'ultima interpretazione, ma non certo la prospettiva storica e scatologica della destinazione al solo bene e al superamento del male. E anzi, dopo il chiarimento metodologico della questione della teleologia stabilito nella Critica del Giudizio e precisato nelle sue conseguenze essenziali nel saggio sulla teodicea del 1791, che Kant può tornare ad approfondire nel libro sulla religione sia la questione dell'irriducibilità del male morale chiarito come male radicale investente ogni uomo, sia la problematica strutturale del superamento di questo male tramite la conversione interiore e la fede in un concomitante soccorso divino, sia, infine, la dimensione storico-comunitaria ed escatologica del progresso verso il bene. Solo negli anni 90, solo quindi dopo questi testi, diventa possibile legittimare e insieme rettificare le elaborazioni della filosofia della storia degli anni 80, culminanti nel concetto di chiliasmo filosofico come ideale intrastorico di una comunità politica di tipo giuridico repubblicano, di una comunità internazionale di tipo federativo cosmopolitico e quindi di una pace perpetua tra gli uomini, ed integrarle con un chiliasmo teologico che diventa l'ideale estremo ma ancora intrastorico di una comunità etico-religiosa come regno di Dio sulla terra, pur senza identificarsi con l'inevitabile postulato escatologico di un eterno regno dei cieli, questa è l'espressione usata di Kant, in senso ultrastorico. Ma su questo naturalmente non parlerò più. Grazie. Ringrazio.